America 24 di Mario Platero. Ben Bernanke, the final vote has happened, 70 in favor, 30 against. Buona giornata cari ascoltatori da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. L'avete sentito, Ben Bernanke è stato confermato alla guida della Banca Centrale Americana dopo le accuse, la crisi l'ha creata lui, ha fatto malissimo con AEG. I senatori sono tornati all'ovile, hanno capito che il mercato l'avrebbe presa male e così 70 voti favorevoli, per una volta un'acclamazione bipartitica, una preoccupazione in meno. Closure vote, that's a procedural vote, there as the closing bell happens. And you know, can we make a point here? There was somebody, it was Senator Porter who wanted this. Ma Bernanke non basta, i blues del mercato non sono svaniti, l'indice Dow Jones ha chiuso lo stesso al ribasso ieri dell'1,13%, siamo a quota 10.120, scenderemo sotto quota 10.000 e una correzione. Di certo non bastano più i good news di ieri, per esempio. Ford di nuovo in nero per la prima volta dal 2005, o le attese per un tasso di crescita addirittura del 4,8% per il quarto trimestre, e questo lo sapremo già fra mezz'ora. Ma perché l'agitazione? Perché i problemi di fondo, il pacchetto di stimoli in esaurimento in settembre, la disoccupazione che non parte, la ripresa non necessariamente sostenibile, bene, a questi problemi si aggiunge un'altra variabile, l'inversione di tendenza per i tassi di interesse. Quanto ci vorrà? 4 mesi? 6 mesi? Ormai l'orizzonte è più vicino, anche con Bernanke confermato. Improvvisamente il destino degli investimenti in borsa avvenuti grazie al denaro facile non è più scontato neppure lui. E così entriamo in una nuova fase. With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed a century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations, to spend without limit in our election. Piccolo scandalo nel post discorso Stato dell'Unione. Gli applausi che avete sentito erano dei democratici per Obama che attaccava la Corte Suprema. Non era mai successo che un presidente in un discorso dello Stato dell'Unione in Parlamento, davanti al Parlamento in seduta plenaria, portasse un attacco così diretto ai grandi sacerdoti della Costituzione. Crisi istituzionale? No. Per ora no. Soltanto una piccola lamentela. I'm not sure that it was appropriate for the President of the United States to scold a Supreme Court. La voce di Juan Williams, un commentatore democratico per la Fox News, non è soddisfatto. Chiediamo al professor Giovanni Sartori, grande costituzionalista, grande esperto dell'America, insegnato negli Stati Uniti per molti anni, come mai per ora non c'è stata una reazione e cosa pensa di questa vicenda. Reagisco un po' con sorpresa perché non è stato frequente, dico, è successo, ma insomma è fuori regola. Ci sarei andato anch'io però pesante, perché la faccenda del finanziamento dei politici, soprattutto dei politici, insomma è un fattore di corruzione devastante negli Stati Uniti. Sì, ma perché non c'è stata ancora una reazione forte? Siccome il fatto è così raro, sono i grandi organi di informazione sono stati un po' presi di sorpresa e ci devono pensare un momentino, perché io penso che reagire, insomma, poi ci sarà un dibattito anche nell'opinione pubblica. Abbiamo con noi anche Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano. Professore, in Italia ci fu una situazione analoga a quella che abbiamo visto nei giorni scorsi a Washington. Certo, il contesto giuridico è completamente diverso, le ragioni sono diverse, il presidente Berlusconi aveva un interesse diretto nel criticare una sentenza della Corte Costituzionale, però ci furono critiche, la polarizzazione politica nei due paesi è simile oggi, eppure le reazioni sono state molto diverse. Perché secondo lei? Ma in Italia intanto diciamo che le critiche sono state molto forti, hanno generato quasi una levata di scudi, uno scandalo che rende questo tipo di critiche anche molto dirette, proprio attacchi quasi personali ai giudici, particolarmente inviso alla opinione pubblica colta. Probabilmente negli Stati Uniti la vicenda ha avuto un'eco diversa, perché c'è una tradizione, diciamo, di contrasti anche storici tra il potere esecutivo, legislativo e la Corte Suprema, che rende in qualche misura quasi più normale il fatto che l'esecutivo, soprattutto il Presidente degli Stati Uniti, possa esprimersi in termini molto duri anche nei confronti di un'istituzione come la Corte Suprema.